Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. L'appuntamento con l'Adico che si rinnova, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Un saluto a te Francesco e agli amici in ascolto. Allora Gianluca, anche oggi torniamo a parlare un tema che molte volte in questi anni abbiamo affrontato, ma che evidentemente è un argomento importante che tocca molti di noi. L'argomento riguarda la salute dei denti. Sì, ne torniamo a parlare perché devo dire che adesso non voglio utilizzare percentuali, però continuiamo a avere casi, quantomeno, non dico settimanali, ma almeno un caso al mese, di persone che si rivolgono alla nostra associazione e dopo aver preso, potremmo chiamarla una fregatura, in uno studio dentistico. Ora, Francesco, chiaramente stiamo parlando di un argomento molto delicato e non facciamo di tutto l'erba un fascio, ovviamente, però voglio raccontare, ecco, quello che sta succedendo un po' con certi tipi di società, di società a responsabilità limitata, che si occupano appunto, sono degli studi dentistici, solitamente studi con diverse poltrone, e abbiamo tantissimi casi. Guarda, abbiamo avuto proprio uno ieri, anzi due signore sono presentate ieri da noi, e per questo motivo praticamente ci si rivolge a queste grosse società, chiamiamole così, che solitamente sono dei franchising, quindi sono anche presenti, sì, in altre zone d'Italia e anche d'Europa in realtà. E niente, ci si fa la classica visita, di solito c'è anche una, diciamo, una certa gentilezza anche un po' sospetta da parte di chi ti accoglie, anche eccessiva. Dopodiché viene fatto un bel preventivo, solitamente 5, 6, 10, 12 mila euro, e si invita la persona appunto a finanziarsi tramite appunto una finanziaria, di solito si suggerisce anche quale. E praticamente cosa succede? Succede che la persona fondamentalmente paga già tutto il lavoro che deve fare sui propri denti, e dopo attende ovviamente di andare a farsi visitare. Bene, abbiamo due tipi di situazioni. La prima, le situazioni di persone che dopo aver pagato tutto vanno a farsi, diciamo, mettere le mani in bocca da persone che non si rivelano dei professionisti, quindi ci ritroviamo con situazioni di persone con veramente la bocca rovinata. Abbiamo veramente ad esempio una signora rumena che ha avuto proprio anche dei problemi di salute molto gravi dopo che è intervenuta questa società di dentisti per curarla. L'altra cosa, che non so se definire più grave, ma sicuramente sì, è che molto spesso invece queste società chiudono, e quindi la persona ha pagato ma si ritrova senza più il suo dentista, fondamentalmente, quindi in una situazione imbarazzante. Devo dire, Francesco, che non c'è capitato un caso, due casi per cui voglio raccontarli così, ma ce ne sono capitati tantissimi, quindi la situazione è quasi fuori controllo da questo punto di vista. Ecco, questa cosa che segnali io non l'avevo ancora sentita, quindi ti ringrazio per questo, perché credo che facciamo comunque una buona informazione, perché non si finisce mai di imparare dove può esserci il tranello, e quindi come evitare di prendersi delle fregature. Cosa conviene fare quindi? Pagare ogni volta che viene effettuato il lavoro, come si faceva una volta dallo studio dentistico tradizionale o dal nostro dentista, mano a mano che ci faceva il lavoro si andava a pagare una piccola quota di questo lavoro, sapendo che si sarebbe arrivati poi nel giro di 2-3 anni a pagare tot. Infatti, Francesco, è la cosa su cui noi ormai stiamo puntando, ma faremo anche un'ampia informazione su questo. Perché appunto una volta era esattamente così, casomai era il dentista che aspettava il pagamento rateale del paziente. Adesso abbiamo una situazione inversa con questi tipi di società, per cui si paga tutto e subito. Quindi, primo consiglio, evitare questo tipo di pagamento, perché la società può chiudere, perché può essere che non siamo contenti del lavoro di questi studi, in cui tra parentesi ci troviamo una volta con un dentista, una volta con un altro che non sa minimamente quale sia il nostro problema, quindi insomma non è bello neanche da questo punto di vista. Quindi guarda Francesco, io direi di puntare, poi ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole, magari c'è qualcuno che si è trovato anche bene con queste società, io direi di puntare sul dentista tradizionale, definiamolo così, il dentista conosciuto tramite il passaparola e quello insomma che non ti chiede un finanziamento prima di farti il lavoro. È un consiglio semplice, forse anche banale, però abbiamo veramente tante situazioni difficili e persone che hanno tirato fuori migliaia di euro, e quindi non stiamo parlando di qualche centinaio di euro, migliaia di euro, per cui attenzione, porre massima attenzione, la propria salute è importante anche il portafoglio, quindi veramente un occhio di riguardo, evitare di finanziare tutto un lavoro prima di averlo fatto. Credo che anche oggi abbiamo fatto una buona e sana informazione, di questo ringrazio soprattutto l'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it dove trovate i contatti e tutto quello che vi può servire in merito. Grazie a Gianluca Codognato, al prossimo appuntamento. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.